100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La domanda può sembrare cinica, ma in qualche modo è legittima. Si tratta di capire quale potrà essere l'impatto sull'economia delle tensioni internazionali generate dagli attacchi terroristici. Ieri una risposta è in parte arrivata dal centro studi Confindustria, che ha segnalato i fattori negativi che incidono sullo scenario economico globale. C'è una frenata delle economie dei paesi emergenti, cosa della quale eravamo a conoscenza, con il conseguente rallentamento del commercio mondiale, ma ora c'è anche proprio la paura generata dagli attacchi terroristici che alimenta quella percezione di incertezza che disorienta gli operatori. Quindi aumentano i fattori che non consentono all'economia in genere e alla nostra economia in particolare di prendere quota, cosa che, dice sempre Confindustria, nel terzo trimestre di quest'anno è confermata anche da indicatori economici non proprio brillantissimi. In 9 mesi la crescita acquisita del PIL si è fermata allo 0,6% e finora non sembrano manifestarsi gli effetti attesi di un'annata turistica che aveva fatto ben sperare. Ci sono però anche segnali positivi. Il primo, segnala Confindustria, è il recupero del PIL che proseguirà anche nei prossimi trimestri. L'altro è che i contraccolpi della domanda estera più debole sono compensati da una buona dinamica della domanda interna che ci consente di crescere anche se si riducono gli stimoli che arrivano dall'export. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Proprio stamattina nei nostri 100 secondi abbiamo segnalato come sia l'allarme terrorismo sia il rallentamento delle economie dei paesi emergenti, prima fra tutte quella cinese, stiano rendendo più incerto il quadro economico, ovviamente anche quello italiano. È vero che oggi dall'Istat è arrivato un dato molto positivo sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, che a novembre ha toccato i livelli più alti di sempre, ma va detto che questa rilevazione è stata fatta prima degli attentati di Parigi, quindi vedremo come ne risentirà la fiducia in seguito. L'altra notizia importante della giornata arriva però proprio dalla Cina. La borsa di Shanghai ha registrato il suo peggior risultato da questa estate, quando il mercato azionario era letteralmente collassato. Che cosa è successo oggi? C'è stato un crollo dell'indice pari al 5,5%, che si spiega da un lato con l'apertura di un'indagine legata a uno scandalo che ha colpito alcune società di brokeraggio colpevoli di aver falsato i rendiconti ufficiali. Ma dall'altro lato non è un caso che la caduta di oggi coincida anche con un dato economico che conferma il rallentamento della locomotiva cinese, cioè la flessione del 4,4% dei profitti delle imprese industriali. Pessima notizia per l'economia globale e per la nostra economia in particolare, visto che la frenata della Cina e degli altri paesi emergenti finisce per avere pesanti effetti negativi sul nostro export. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.